Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Minuti, bentrovati su Blu Radio Veneto, nuovo appuntamento con Rock Wave Live, la versione classica del mercoledì dalle 22 alle 24 sulle nostre frequenze. Ormai da anni andiamo avanti con tanta buona musica dal vivo. Maurizio. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Stasera abbiamo buonissima musica dal vivo. Buonasera ai Margaret. Ciao, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Avete fatto buon viaggio? Sì, beh, non molto distante da Mestre, fate abbastanza presto. Sì. Guidati dalla provvidenza. Guidati dalla provvidenza. Sì, mi diceva Sergio che sono stati guidati dalla provvidenza perché hanno avuto un intasamento, un qualcosa. Cosa dice Alessandro? Una virata sbagliata, non prevista, che però ci ha portato sulla strada giusta. Quindi ecco, forse la via della musica, la strada giusta della musica. Bene, vi vedo ottimamente in forma perché avete fatto un disco di recente, uscito il 27 di gennaio, quindi sì, recentissimo, disco molto interessante, è il secondo album effettivo vostro questo qua, esatto, perché la discografia vostra comincia con un EP, cioè con dei dischi da 5-6 pezzi, è così? Sì, nasce... E come nascono, i Margaret, come nascono, come si sviluppano musicalmente? Partiamo, diciamo, facciamo una cronologia. Facciamo una cronologia, dai. Iniziamo, diciamo. Tanto ognuno... siete in quattro voi. Stasera siete in due. Siamo in due, no. Originariamente noi nasciamo in cinque. Ah, perfetto. Nasciamo in cinque nel 2006. Mm. Ognuno che viene da esperienze diverse, con già gruppi alle spalle. Ci siamo trovati io, Paolo alla voce, poi Nicolò alla batteria che c'è ancora, anche Alessandro alle tastiere, tromba, ancora attualmente nella band, e l'altro componente che rimane con noi nello spirito, però col corpo sta dall'altra parte dell'oceano perché è a New York, è Andrea Longato, che era il chitarrista, secondo chitarrista. È il quinto elemento come i Rolling Stones, che avevano il quinto elemento praticamente, o i Beatles che avevano George Martin. Più che altro così abbiamo qualcosa da raccontare. Esattamente, esattamente. E lui è andato a fare un'esperienza di studio musicale a New York assieme anche al batterista. Uno è tornato indietro, il batterista, l'altro è rimasto lì e con ottime ragioni per fare una sua carriera. Bene. Niente, poi però assieme a lui abbiamo fatto il primo EP, si chiama omonimo Margaret, e questo nel 2006. L'esperienza, diciamo, durante il loro passaggio a New York, in America, la nostra esperienza in tre che sono rimasti, abbiamo prodotto un EP, si chiama This Town. Però ti dimentichi di Out of the City, che Out of the City, l'EP anche del 2007, che anche quello un altro EP, anche quello con la, sì, con la formazione A5 originale, A5, con Andrea, e anche quello sì, un EP autoprodotto, quattro tracce, che sono state le prime nostre produzioni, quasi per la fretta o per la voglia di far ascoltare subito e di dare un segno e un senso alla band, che secondo noi la produzione discografica è una cosa che dà senso anche oltre alla presenza sopra il palco. Ma secondo me avete dato un segno decisamente forte, anche chiaramente in questo nuovo disco, ma anche nella storia precedente vostra, perché avete un sound molto particolare. Io che amo un certo sound, io, ragazzi, sono di una certa età, quindi amo psichedelico. Bravo. Proprio quello, onirico psichedelico e le chitarre lisergiche. Ah, che bello, una cosa meravigliosa, Quindi questi EP, rispetto al suono dell'EP, cosa è cambiato rispetto a quello che è uscito da pochi giorni praticamente? Di sicuro ci sono molti più elementi nel calderone e quindi è stato molto più difficile da un lato, ma molto più bello dall'altro, cercare di trovare delle nuove direzioni anche insieme a Giovanni Ferrario come produttore artistico, che è stata la prima volta per noi che siamo andati in studio con un nome di un certo livello, un nome molto importante. Giovanni Ferrario, che ha suonato con la signora Polly J Harvey, con il signor Hugo Reis, gente Sepiaton, Scisma, diciamo fa parte del Goth, insomma, ormai da tanti anni, che è uno dei migliori musicisti d'Italia. Ora, per dirne una, gira con le luci della centrale elettrica, certo, sì. Lo fa quasi per gioco, nel senso che perché aveva voglia di suonare, cioè, i migliori gruppi della scena indipendente italiana comunque spesso non c'è nessun problema se gli chiedono di andare con loro e lui accetta anche così. Che cosa ha contribuito a plasmare nel vostro sano questo prodotto? Ci ha portati un po' più in là, nel senso, noi eravamo arrivati a un punto del nostro suono dove volevamo fare qualcosa di più, dove volevamo esplorare più territori elettronici. Io avevo appena cominciato a usare la chitarra elettrica, l'avevo usata ovviamente anche da piccolo, però con questa band, con determinati effetti, con determinate sonorità, ero alla ricerca anche di un suono, come tutta la band. Lui è stato quello che ha detto: ah, volete andare dal lato oscuro, volete andare dall'altra parte, volete sperimentare? Bene, venite con me. E ci ha guidati, ci ha fatto fare delle cose anche un po' più di rottura a livello sonoro. Si sentono dentro il disco degli assoli cacofonici, delle cose un po' strane, sempre però dosate ovviamente. Diciamo che anche rumoristico in alcuni momenti. C'è un po' di non siamo un gruppo di avanguardia, magari non vorremmo neanche fuorviare chi ascolta, però ci sono anche dei momenti dove il suo gusto artistico al 100% ha fatto sì in modo che noi producessimo musica che da soli non saremmo riusciti. Ci ha molto aiutato nella produzione, mentre nel primo disco, White Lines, la produzione l'abbiamo fatta da noi. Ed era anche un po' la prima volta che ci trovavamo con un disco intero. Dopo averlo registrato, ognuno il suo strumento, poi ti trovi lì davanti a questo mixer e ti chiedono: bene, ora parte tutta la tua produzione, devi mixare, devi creare. E uno musicista, o almeno noi, abbiamo sempre pensato: boh, registrati i pezzi sono quelli, ora va il disco, dovrebbe funzionare. Invece non suona. No. Perché non suona? Che cos'è che manca? Ecco, lui ci ha fatto vedere quello che si fa in regia, alla sala. E lui dipinge, è come un pittore che dà i colori caldi, freddi al suono, e quindi l'ha fatto proprio girare. Sì, un'idea di massima sul disco, mentre con White Lines, che secondo noi è un disco molto bello lo stesso, si sente un po' più di normalità a livello di suoni, perché appunto il produttore, cioè colui a cui abbiamo registrato il disco, che è Marino De Angeli, che si sta ascoltando, lo salutiamo. Altro che. E diciamo il suo compito era quello di fare un disco come volevamo noi. E noi forse non lo sapevamo fino in fondo. Quindi non si è sbilanciato più di tanto il suono, mentre con Giovanni vi ha indirizzato, ha cercato di smussare certe cose. E non dimentichiamo un'altra cosa, che abbiamo registrato Fractals nello studio di Marco Tagliola, che è un grandissimo, che ha registrato Registra Casale, registra Marco Parente, ha registrato Capossela, ha registrato i Baustelle. Hai sentito che nomi, Sergio, di grandissimo calibro? Sicuramente. Decisamente. Dobbiamo dire anche il titolo del disco nuovo. Fractals. Perfetto, benissimo. È uscito il 27 gennaio, tu hai detto, quindi pochissimi giorni fa. E già si presenta bene fin dal primo pezzo, dal pezzo di apertura. Mi pare che abbiamo scelto la traccia numero uno, farla sentire. Sì. Ok, la sentiamo adesso, Sergio, cosa dici? Andiamo a sentirla. Ok. Rockwave, l'onda del rock. Sunrise, wash away my time. Blue Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Dal loro ultimo album in Margaret con Daylight. Maurizio, sì, rock da ascoltare a luci spente. Esatto, sì. Psichedelico, c'è poco da fare. Il trend psichedelico ci prenderà per tutti i pezzi, a mio parere. Poi gli ascoltatori sentiranno. Secondo me è così, assolutamente. Diceva giustamente Paolo e anche Alessandro al microfono spento che il produttore Giovanni non ha tagliato i pezzi, li ha solo abbelliti col suo orecchio praticamente, li ha catapultati in una certa dimensione che lui sentiva. Non è sì, così, sì, non è stato un lavoro poi così radicale, nel senso che avendogli consegnato i provini nessuna canzone è stata stravolta, snaturata, sono state semplicemente arricchite in un modo che noi non pensavamo. Alcune sono state strutturalmente, le modifiche strutturali sono state quasi inesistenti, un paio di battute, è proprio stata una questione di suono e di feeling, di anima, di luoghi mentali e sonori che lui sa come si il primo, questo abbiamo sentito il primo pezzo, quello che dà inizio all'album. Com'era originariamente? Era così o c'è stato una piccola variazione? L'arrangiamento è stato leggermente modificato? Ma c'è stata una spinta, diciamo. Una spinta. Ha alzato un volume, non un volume nel senso di suono, di suono, volume, ma proprio un volume di spessore. Ecco, bello sta frase che hai detto, un volume di spessore. Cioè, ha dato un corpo e una sua immagine, ecco, quello che ha tirato fuori. Sicuramente l'obiettivo della psichedelia è quello volevamo raggiungere. Certo. Ed è un qualcosa che quando ci hanno detto appunto sì, voi volete passare dalla parte oscura, comunque voi volete fare psichedelia, se volete fare psichedelia dovete tirar fuori suono, ma suono nel senso proprio un grande suono, ingrandito, e con lui pensiamo di esserci avvicinati o avere un po' vi ha servito anche strada. Una certa maturazione. Certamente, Giovanni sì, vi ha dato sì. una spinta in più, un'ulteriore sì. spinta. Giovanni e chi ha collaborato con Giovanni chiaramente. Ah beh, sì. Noi Giovanni, quanto possiamo dire, l'abbiamo conosciuto grazie a un tour che abbiamo fatto come spalla noi a un'artista, Marta Collica, un'artista siciliana che però è stata trapiantata a Berlino, Germania, quindi e abbiamo fatto un mini tour con loro e Giovanni Ferrario l'accompagnava alla chitarra, quindi è stato un po' un conoscerci, vivere assieme, dormire un po' in questi giorni, che ci ha permesso anche che lui, diciamo, ci conoscesse e ci apprezzasse un po'. Com'è stato l'impatto in Germania da parte vostra? L'impatto è stato ottimo. È stato veramente incredibile vedere come in Germania hanno i locali per ascoltare musica e i locali per bersi una birra e ascoltare musica in sottofondo. E questa cosa è gratificante, soprattutto per uno che va a suonare, in cui proprio la gente si prende la birra al bancone e poi va nella sala tutti quanti in un religioso silenzio ad ascoltare, perché si vuole proprio sentire. Perché è vero il discorso che... cito la Germania, che la gente che ascolta il concerto preferisce i concerti di artisti indipendenti, nel senso che hanno pezzi originali, non sono cover. Sì, sì, questo non vanno, ecco, non so. Paolo dice sì, ha ragione. Sì, perché anch'io ho queste preferenze, chiaramente non... La cover, senza nulla togliere, sì, chiaramente, senza la cover band dei Led Zeppelin, io ho i dischi dei Led Zeppelin a casa e me l'ascolto e non mi ascolto la cover band, insomma, e ovviamente adesso non si possono ascoltare i Led Zeppelin dal vivo, quindi uno se vuole, se non voglio fare polemiche, non, certo, non è proprio una cosa che è pacifica dentro di me. Però ovviamente il tempo e il denaro che investo lo faccio per la ricerca di musica originale, nuova o anche vecchia, però sempre originale, sempre certo. originale, questo è importante, sì, fondamentale. Sì, sì. Quindi siete stati anche all'estero, voi, la vostra band è una band dal vivo, amate particolarmente suonare dal vivo, perché suonare dal vivo è roba essenziale per una band, secondo me. È l'acqua. È l'acqua, l'acqua, l'acqua del, dei pesci. Anche se il suono vostro non è facile da mettere su dal vivo. O così, o no. Ci stiamo lavorando. Ci state lavorando. E... siamo dei gran rompipalle sul palco. Perfetto. Sul palco, il fonico dipende un po' da... Chi è il fonico vostro? Allora, beh, ne abbiamo Mattia Gastaldi. Sì, esatto. Dobbiamo citare che veramente gli dobbiamo molto. Che gli vogliamo molto bene. Sì. E, il concerto di presentazione. Quando l'avete fatto? Racconto un aneddoto. Il 27 gennaio al Centro Culturale Candiani, che è stato un concerto che per me vale... il battesimo del mio futuro figlio piuttosto che il mio futuro matrimonio, se mai. Ok, cioè uno di quegli eventi che sono, segnano per me un'esistenza, una di quelle tappe importantissime. E abbiamo riempito molto il palco, nel senso che avevamo due batterie. Ah, due batterie. Io avevo l'acustica, l'elettrica, poi c'ho tutti quanti i miei pedali, che sono comunque una bella valigiona di pedali. Poi c'avevo l'electric reed organ, cioè l'organetto elettrico. Adesso faccio tanto l'americano. L'organetto elettrico, che è Bontempi, tra l'altro. Bontempi, è sì. Vintage, perché è anni 70, però è Bontempi, quindi è roba italiana. Organetto e gibo a Wurlitz, era un sacco, a 3-4 tastiere, cioè, adesso Nord, abbiamo cominciato a usare un campionatore, e insomma... Bello! Sì, e cerchiamo però di usare quello che serve da ogni strumento, e siamo un po' in questa fase, abbiamo ingrandito la nostra paletta di colori, no? E stiamo cercando di usarli al meglio, e per usarli al meglio probabilmente non ci si arriverà mai, però... è che non stanno tutti dentro una tastiera, ci tocca portarne tante, sì, tante. Abbiamo iniziato anche solo per un pezzo. L'acustica, il basso, la batteria piano e il pianofortino elettrico. Adesso non siamo più quelli, stiamo crescendo. Che anche data di volume porta il Bontempi che abbiamo qua? Che miseria, il Bontempi. Ha un po' di anni sicuramente. Che Sergio non ha il volume, non può essere prestabilito. Sì, forse è così e basta. È quello, questo è ci quello. Può dare la data, appunto, che non c'è il regolatore del volume. Quindi siamo veramente. Posso dire che c'è un tagliandino di revisione che dà del 2004. Sì, revisione, sì, quindi... questo credo sia attorno al 72-73. Bellissimo, è bellissimo. Credo. Anche perché non. Questo è del nostro tastierista, ovviamente, di Gibo, che salutiamo se ci sta ascoltando. Comprato a Berlino, tra l'altro, mentre eravamo in tour in Germania. È difficile trovarlo, perché anch'io ho provato a cercare così per ozio in internet e non c'era. Non è facile, non è una cosa che... Poi, poi lo sentiremo, cari ascoltatori, un suono... ha un suono dall'epoca, un suono forte, un suono che non ha regolatori, come tu giustamente hai detto, Alessandro, però ha un certo fascino, c'è poco da fare. Mi ricorda, Sergio, l'organetto che usava tanti anni fa, il buon Franco Battiato, qua al Pio X, ovviamente non c'eri, tu non c'eri, ma chi ha una certa, la mia età, quando Franco Battiato faceva le famose suite, Marcel e Gladiator, disco da una facciata intera, praticamente un suono unico, usava un organetto piccolino, rosso, lui sedeva proprio su un tappeto rosso e suonava questo organetto e dava delle sonorità magiche. Sai, lui ha fatto ricerca, ha vinto il premio Stockhausen, quindi un personaggio di altissimo rango, e dava queste sensazioni con l'organetto. Dall'organetto sviluppava delle suite che ti avvolgevano, due ore di totale, ti prendeva totalmente, all'epoca. Quindi una cosa, anche quella era psichedelia, quella ricerca più psichedelia, ricerca di un suono particolare, come Battiato ha sempre fatto. No, che ce n'erano di gruppi poi italiani che nel campo, cantando in italiano poi, è che fatalità, mi è capitato qualche giorno fa di andare a casa di un mio amico che ha una raccolta di quasi 4.000 vinili. Però, meraviglioso. Incredibile, una parete intera, e mi ha fatto ascoltare. Io ero andato là per cercare qualcosa che mi interessasse, quindi internazionale, certo. Però invece mi ha fatto ascoltare gruppi italiani, sì. Cose che purtroppo per la mia cultura non ascolto molto e che non conoscevo nemmeno, ma anche gruppi come tipo, faccio un nome, New Trolls, sì, certo. Che li ho conosciuti soltanto in macchina, nelle cassette di mio padre, quando facevano gli ultimi anni, facevano i pezzi pop. Sì, Alderaban, però mi ha detto che c'era un disco, tipo il Gran Concerto per New Trolls. Certo, è qualcosa grosso di, per New Trolls. È qualcosa di psichedelico, certo. Sì, concerto grosso per New Trolls, qualcosa famoso. Di psichedelico che non ho mai immaginato. Perché aveva una facciata solo di improvvisazioni, il lato A e il lato B era solo improvvisazioni. E Battiato è messo dentro anche nella categoria psichedelico, sì. O anche prog, sì, progressi, certo. Di italiano. qualcosa che, ma per ignoranza mia e per la mia età, Anna 84, non... giovane, molto giovane. Non posso. Ok, Sergio, cosa dici? 22 e 28 è ora di suonare. Cosa di farli suonare, sicuramente. Che allora, cosa, ragazzi? Noi facciamo Flakes, che è una traccia tratta dal... No, è Rosemary, scusami. Rosemary Calls. Come vuoi, palo uguale. Una traccia tratta dall'ultimo disco. She'll have left you by the train. Shouldn't have left without explain. Shouldn't have let you touch the ground. She'll have let you count the clouds. Rosemary comes. Rosemary comes. I have never thought you to sing. I'm just waiting for a rain. Rosemary comes. Rosemary comes. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Blu Radio Veneto, ovviamente all'interno di Rock Wave Live del mercoledì con i Margaret, che abbiamo appena iniziato a far cantare. Maurizio. Sì, un pezzo molto interessante. Possiamo chiamarlo un pezzo indie, secondo me. Un acustico indie, cioè quel rock indie. Anche folk indie, secondo me, non so se sei d'accordo Paolo e Alessandro. Qua io purtroppo con le categorie non parlo di categorie, folk sì, può essere folk, cioè musica acustica in questa dimensione, assolutamente acustica, assolutamente. Però con certe sonorità, con certi voli pindarici. Ho capito cosa vuoi dire, esattamente. C'è chi lo chiama acid folk, esatto, acid folk, esattamente. Sick folk, weird folk, sì, poi... Beh, insomma, sì, ho capito, un po' di sonorità oniriche, un po' fuori dalla normalità, un po' avvolgenti, secondo me, e molto interessanti, c'è poco da fare. Io trovo molto, molto bello, prende immediatamente, poche sonorità molto leggere, scheletriche, però immediate, a mio parere. La sento così. Siamo d'accordo con la tua analisi, sì. E siamo stupiti della tua analisi. Ha 80 anni e può dire quello che vuole. Esatto, 80 anni. No, scusa, che ho risentito il buon Fiorello che imitava Mike, faceva 80 anni, posso dire quello che voglio. Scherzi a parte. No, disco che questo nuovo che ha avuto ottime recensioni in tutti i giornali. Sono stati tutti i critici di giornali specializzati, ne hanno parlato benissimo. È una cosa positiva al di là di tutto. Sì, assolutamente. Sì, ci ha fatto, diciamo, molto piacere e anche considerare il lavoro che abbiamo fatto e per dove proiettarci poi nei prossimi lavori. Ci è servito anche nelle critiche che ci sono, che Sì, leggermente, non proprio. No, comunque ci sono stati dei consigli o comunque qualcosa che ci ha fatto anche un attimo ragionare a livello. Frutto di tutte le cose che portano a un confronto. Interpretazioni diverse che sono positive, quindi magari mettere in discussione ogni tanto le cose che tu pensi per. Che tu dai per fatte, per ferme, per a posto, fa sempre bene. Certo, quindi. Avete parlato di lavoro, ma quanto vi è pesato questo nuovo disco? Che sofferenza musicalmente vi è costata? Questa è una splendida domanda. Difficile non parlare di sofferenza, nel senso che le canzoni comunque ne sono abbastanza pregne, non di quella sofferenza magari piagnucolosa, sì, certo, è una cosa certo. Un po' più esistenziale. Sono nate in un momento molto particolare. E personale, niente di eclatante, proprio di un momento riflessivo sulla vita e sulla sua utilità, sul suo significato. E questo è un aspetto, diciamo, una dimensione di quello che tu hai chiamato sofferenza, che poi sì, è sofferenza un discorso, a 360 gradi. Sì, è un discorso che lasciamo lì, sì, così. Certo. E, da un punto di vista invece più strettamente musicale. La sofferenza c'è perché comunque è suonare quello che ci fa sentire vivi, posso dirlo, spero, a nome di tutti, non riusciremo a vivere senza, quindi è una cosa estremamente bella, però non è semplice, non, come tutte le cose belle, non è una cosa semplice, è una cosa che implica comunque molte difficoltà e che... può non ripagare da un punto di vista, può non sempre ripagare, diciamo. E uno può investirci molto di se stesso e può avere poco ritorno, deve saperlo accettare, chi si mette in gioco è così, cioè uno si mette in gioco, mette tutto se stesso in una cosa e poi magari va a suonare e c'è quello che ti dice sì, ma perché non cantate in italiano? Anche quello sì, anche quello. Ed è un po', a volte è un po' pesante, io ho imparato a non farci più caso e con questo non voglio dire che mi dia fastidio. No. È semplicemente una questione di non possiamo, chi suona non può aspettarsi che la gente entri nella sua lunghezza d'onda. La gente ha altro da fare anche. Non tutti sono musicisti, non tutti sono disposti a entrare in certi discorsi, specialmente nell'ultimo periodo, perché non ci sono più. E la musica ha perso molto del suo potere comunicativo per quanto riguarda i gruppi giovanili, parlo di gruppi di persone, non tanto di musicisti. Ha perso il suo potere di medium, adesso c'è internet, quindi diciamo è rimasta un po' una cosa da collezionisti, è rimasta un po' una cosa da veri appassionati, non è più l'ho già detto 82 volte. No, giustamente Sergio. Quindi è più difficile, ecco, anche. Non è la musica di Margaret, non è usa e getta, questo è importante sottolinearlo, perché siamo stanchi, vero Sergio, dell'usa e getta. Sicuramente qua dentro non la sentiamo. Qua dentro no, però purtroppo adesso va l'usa e getta. Almeno dalle 10 a mezzanotte. Esattamente. O anche solo il getta. Solo il getta. Anche solo il getta, questo è verissimo. Però qua non si usa, perché noi abbiamo sempre portato avanti un discorso di cercare di scoprire, di sondare, di allargare, di trovare, perché la gente nuova ce n'è tanta e di brava che viene a suonare. Il livello si è alzato spaventosamente anche qui nel nostro paese negli ultimi anni, anche ci perché sono... anche perché mica tutti suoneranno, ci sarà anche chi ascolta, quindi chiaro. Giustamente chiaro. Voglio dire. No, noi diciamo la nostra musica è ovviamente un qualcosa non... ma appunto come l'ascolto usa e getta, bisogna entrare nella lunghezza d'onda nostra, come dicevi prima. Noi cerchiamo di fare le canzoni, creare un suono che ti dia un'emozione, ma devi essere in quel momento della giornata, che può essere qualsiasi modo, triste, allegro, depresso, però ti può cogliere in quel momento. Ovviamente può non essere il disco da mettere andando e via. Come può anche essere il disco di mettere andando via in macchina col tettuccio aperto? Cioè, è soggettivo. E quindi quello che noi cerchiamo di portare è un suono che ti prenda in un certo stato d'animo. Che possa attecchire. Esatto. Ecco. Tu hai detto una cosa giusta. Stiamo facendo delle canzoni, creiamo delle canzoni. È una cosa bella secondo me. Sì. Creare delle canzoni, cioè un progetto, creare un progetto. non così, è andare avanti per la propria strada, con tante difficoltà, siamo d'accordo, però andando avanti per la propria strada, secondo me, ha un certo senso, un certo percorso da seguire. Sì, sì, ha un senso e ha un suo sacrificio. Certamente un sacrificio. Di essere fedeli a quello che uno sente e ama fare. Ovviamente noi, la gente è libera di ascoltare e di non ascoltare, di apprezzare oppure di odiare quello che uno produce e fa. La purezza è rimanere a fare, a produrre quello che uno ama. E se si ha la fortuna di coinvolgere più persone, esatto, questo è il massimo che si può chiedere. E la vostra etichetta Macaco Records a queste, sì, a questi presupposti. Assolutamente, da quello che ha detto Ale si capisce come ci sia un forte desiderio di toccare la gente, diciamo di toccare le corde dell'animo, di, certo, stabilire un contatto, un'empatia, pur non facendo i dischi pensando a cosa piace alla gente, no? Chiaro, capito. Che è un processo più facile, forse, sì, più facile. Perché allora alla gente piace queste determinate cose, eccetera, eccetera. Allora, in base a quello, ne tengo conto al 50%, al 20%, al 30%, al 90%. A seconda di quanto ne tieni conto, secondo me il valore è inversamente proporzionale in genere. E, come dice Alessandro, siamo noi che guardiamo dentro noi stessi e cerchiamo di produrre le cose che ci piacciono a noi, e questo può renderci o meno credibili, è nostro destino, insomma, e lo accettiamo, è quello che è il percorso che abbiamo deciso di fare, a prescindere dal successo, che è una cosa che non abbiamo mai detto suoniamo per diventare famosi, queste cose qui, insomma, sono discorsi che penso sia chiarissimo. Anche se ovviamente ci pensi tutti i giorni. Sì, sono d'accordo. Diciamo che il desiderio comunque non è quello di diventare famosi. Se proprio c'è un desiderio egoistico, ogni tanto viene fuori in pausa cicca al lavoro, magari, penso. è quello di guadagnare, che ne so, 850 euro al mese, e cioè tipo il minimo per pagarmi l'affitto, le spese e fare quello che mi piace. E quindi diciamo il desiderio della fama è proprio una cosa che non so. Questa è una cosa molto positiva, di far sentire gli altri, quello sì, di far sentire, di fare ascoltare la vostra musica, quello è fondamentale, importante, e secondo me in tutti i progetti alternativi o non solo alternativi, di far sentire, di mandare un messaggio, questo è fondamentale. Ok, il messaggio lo mandiamo spesso noi musicalmente parlando. Cosa, sentiamo un altro pezzo, cosa dici dall'album? Hai scelto tu, giusto? No, hanno scelto loro. La traccia numero 2, Shadow Scum. Perfetto. Rockwave, l'onda del rock. No sunlight, walk towards the peak, shadow sky. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Shadows Come dei Margaret su Blu Radio Veneto. Grande atmosfera, veramente. Sì, un po' di chitarra distorta, sì, hai sentito? Sì, che bello, la chitarra distorta fa sempre piacere. Fazzaccio. Fisicamente fa sempre piacere. Sì, sì, sì, ovviamente. Ok, benissimo, stiamo conversando piacevolmente con i Margaret. Avete detto che avete fatto, sì, siete stati all'estero, ma avete fatto tante date in Italia, però avete fatto tante. Siamo stati in parecchi posti. Abbiamo fatto nel nord Italia, ci siamo spinti fino a Cuneo. Mm. E passando per Varese, poi scendendo giù verso la Romagna. Bene. E poi anche al sud, abbiamo fatto una tournée al sud, toccando Campania, Puglia, penso abbiamo fatto Calabria. Bene, e sì, la Sicilia. Beh, siamo stati anche a Milano. Poi siamo stati a Milano un paio di volte. Senso, abbiamo fatto, l'abbiamo girata un po' girata, la penisola. Sì, sì, sì, sì. Com'è la risposta del pubblico? Ma variegata, possiamo dire. Variegata. Sì, come la gente, poi appunto, come parliamo prima di chi, sì, certo, riusciamo a entrare in empatia con le persone. Abbiamo anche delle ottime risposte con un pubblico ridotto, con una situazione più piccola. Abbiamo fatto dei concerti veramente che ci portiamo dentro, e come quello del Candiani che l'ha fatto, che era tutto quanto un teatro pieno. Bello, una cosa, sì, di grande atmosfera inaspettata. Esatto, c'è stato, parentesi. Io ho provato le stesse emozioni anche in posti piccoli, certo, come il posto in Sicilia, il Centro per la Pace. È venuto un bellissimo concerto, cinquantina di persone. Bene. Ed eravamo su una collinetta dentro a una casa, anche l'atmosfera così, ottima, bellissima. Sì, sì, sì. E quindi diciamo il pubblico poi risponde. Risponde se gli entri nelle proprie corde, se tutto, certo, le sue corde, riesci ad avere degli altri. A Napoli è anche stato bello, curiosi, chiedevano, domandavano. Chi vi le organizza le tournée? Le fate voi? Autoproducete anche le tournée oppure c'è qualcuno che vi dà una mano? È sempre tramite la nostra etichetta Macaco Records, che fa anche booking, quindi ci trova le date. Adesso la Macaco Records... Per promuovere questo disco come fate adesso? Per promuovere questo disco ci siamo, diciamo, appoggiati all'ufficio stampa, alla Lunatic, sì, che è una famosa agenzia. Stampa, esatto. E in più, diciamo, con la Macaco, proprio lo scorso anno siamo diventati collettivo. Ah, ok, ho capito. Quindi siamo entrati più dentro all'organizzazione, abbiamo avuto possibilità anche di far booking a noi stessi e condividere questo percorso. Un percorso che tocca vari ambienti, non solo quelli musicali, ma essendo l'ambiente anche proprio la sede della Macaco Records in campagna, dove ha attorno tutta un'aurea bucolica con animali e campi, quindi si producono anche prodotti biologici. E una delle prime fattorie, mi permetto di interrompere, esatto, una delle prime fattorie, la terza, seconda storicamente in Italia a promuovere biologico. Ah, però. Chiusa parentesi. E lì, in questa co-housing, la chiamiamo, vengono fatti anche dei concerti e preceduti da delle cene con prodotti biologici, quindi proprio un ambiente che tocca, diciamo, proprio l'estremo di come vivere in un ambiente sano, con cibo sano e musica sana, ecco, quindi proprio chiaro. Quindi vi siete veramente autoprodotto, quindi siete stati coinvolti al 100%, allora, praticamente. È fantastico, noi abbiamo anche la sala prove lì, è bellissimo. Dopo anni abbiamo trovato una sala prove, grazie alla Perché è difficile trovare una sala prove, non è dopo mica anni, semplice. Anni che abbiamo vissuto l'underground di Marghera, perché Marghera ha dismesso le sue fabbriche e le fabbriche sono diventate sale prove. Certo. Quelle con l'Eternit. Dove c'è Eternit? Dove c'eravamo noi un po' di anni fa, sì. Però è affascinante anche questo lato post-industriale in cui i gruppi si sono trovati un loro vivere in mezzo alle fabbriche dismesse. Alle fabbriche dismesse, certo. Però poi sì, il fascino della campagna è stato più forte. Sì, è andato sopra. Ragazzi. Bene, 22:48 è anche il fascino del suonare, vero Sergio? Sì, facciamo suonare qualcosa? Sì, sentiamo... certamente. Buono. Che cosa ci fate sentire questa adesso? Volta Flakes per davvero. Ah, Flakes per davvero, ok. Mi dicono Roma adesso Alessandro davvero. Prende il basso e sentiamo anche il basso di Alessandro. Here on the outside, it's getting cold, waiting for a light. Dark is the sky as I walk out the door, bright is my cause the drums fall on my head. Cause the snow comes down in flakes. Snow comes down. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Questo basso incalzante di Alessandro, la chitarra di Paolo e questo pezzo che insinuava, entrava direttamente nel sottoscritto e sicuramente negli nostri ascoltatori con un ritornello molto accattivante tra l'insieme. Bello, molto, a me è piaciuto moltissimo. Come l'avete Grazie. Impostato? Qui chiaramente è una versione scheletrica al 100%, sì. Però nell'insieme dell'album come l'avete impostato? Allora, non l'abbiamo snaturato di tanto. È rimasta acustica principalmente, c'ha un organetto in più, parlo ecco. di struttura proprio del brano, credo di aver capito sì, sì, com'è. E alla fine... c'è una coda con la batteria, con Nicolò che entra con tutti i crismi, insomma, c'è una coda bella ritmata, chitarrone, elettriche, tremoli. C'è un'esplosione finale. C'è proprio la tipologia degli anni 70 praticamente, questa coda, questa jam session. Esatto. Diciamo, c'è sempre un mantra. Un buon minuto esatto, e mezzo un mantra. Continua il giro di accordi e la chitarra continua sempre il suo mantra sotto e si cerca di dare dinamiche. Ok. Sì, cerchiamo di ragionare abbiamo sempre ragionato, penso, sin dall'inizio con dinamiche. Mm, sì. Molto pensando alla pausa, al silenzio come una parte della canzone e proprio un suono da sfruttare, il silenzio. A me ricordava, certo, anche se qui non c'è la voce femminile, quindi Op Sandoval non c'è, ma ricordava molto, io amo particolarmente i Mezzi Star, che stanno adesso hanno inciso un nuovo disco dopo un po' di anni. I Mezzi Star è il cosiddetto rock con dei risvolti un po' particolari, forse leggermente dark, non è il vostro caso, però qualcosa di oscuro c'era, malinconico, sì, e quello è importante. Di piovoso. Di piovoso, bravo, sì, bravo, sì, Sergio, sì. Proprio di piovoso, proprio questa sensazione. Infatti qua cadono fiocchi di neve, quello che cade proprio. Eh sì, questa è una canzone dedicata ai fiocchi di neve. In realtà è più pacifica come sensazione principale. Sì, non violenta come due settimane fa, quindi una neve molto più tranquilla, diciamo, più dolce. Più dolce. Si rifà molto alle geometrie dei fiocchi di neve, al modo in cui una forma riesca a metterti pace. Cosa c'entra quella forma con te? come mai certe forme ti portano in certi luoghi? L'avete scritta assieme o l'ha scritta una persona dei quattro, questo pezzo? Per il momento siamo ancora in una fase produttiva dove io scrivo i pezzi, scarni, chitarra, sì, voce, chitarra e voce, e poi si portano in sala prove, si cambiano mille volte, ci si lavora, cioè, sopra. Tu fai la fase iniziale, sì, sì, no? Proprio lo sketch. Lo sketch, sì, la, sì, pasta, sì, madre. Poi, la pasta madre. Sì, cioè. Poi può capitare anche che io porti i pezzi con una strofa, un ritornello solo. Alcuni pezzi poi sono anche stati tagliati così, cioè alcuni pezzi anche in Fractals, sì, nell'ultimo disco, sono proprio così. Cioè Shadows Come che abbiamo mandato prima, che avete mandato prima, due righe, due versi. E, quello lì è stato un aforisma, quindi anche un po' a volte si decide che può funzionare anche solo lo sketch, cioè lo schizzo iniziale, diciamo, che è autosufficiente, e con pochi interventi strumentali si può portare a... Il bello, Sergio, che il disco è stato inciso in presa diretta. Bello, ho letto, sì. Quindi c'è una difficoltà, c'è una bella energia, c'è anche un certo coraggio in presa diretta, quindi non è... Sì. È buona la prima, appunto. Alla fine ci siamo chiesti perché non si fanno sempre così. Registrare in presa diretta, cioè, perché è fantastico. Il primo disco e tutti gli altri EP sono sempre stati registrati a tracce separate, quindi ognuno lì concentratissimo fa il pezzo con il metronomo, perfetto, rifà, invece... Qui era proprio sensazione di getto, e anche veramente a volte buona la prima, ma non tanto per l'esecuzione minimale e perfetta, ma per l'impasto che dava. Il calore, sì. Quello che tirava fuori. L'abbiamo fatto poi assieme appunto due persone che vivono e amano proprio il suono di gruppo. Non ci hanno, non è che gli siamo piaciuti singolarmente come musicista, voglio lui perché è bravissimo, lui è bravissimo al basso, no, gli piacevamo tutti insieme, e quindi hanno detto vogliamo fare il disco tutti insieme, perché così mi avete colpito e così voglio che il disco colpisca, perché che siete una band che si sposa perfettamente con la nostra ottica. Noi siamo una band. Abbiamo anche un nome per tutti e quattro. Esatto. Quindi... Verissimo. Ok, 22:57. Adesso. Mettiamo un brano? Oppure... Sì, un brano. Sì, così arriviamo. Sì, prendiamo un brano e poi facciamo il giochetto, ok? Allora, è stato scelto la traccia numero 5, che è Beautiful Witch, dall'ultimo disco, appunto, dei Margaret. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. I Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Distorsioni di chitarre che contrastano con la voce calma e suadente dei Margaret. Distorsioni che servono, però contrastano. Eccezionali anche. Certo, giustamente Sergio ha detto il contrasto, ma il contrasto ci vuole nel, nel vostro disco. Il contrasto c'è perché fa parte del progetto. C'è poco da fare. È sì, poi quella distorsione là è un, quella distorsione là è un Wurlitzer distorto. Che è proprio. Cos'è il Wurlitzer? È uno strumento. Un Wurlitzer è un. Attenzione, qua, dobbiamo. C'è il Wurlitzer che entra alla fine, ma c'è la chitarra elettrica che è quella cosa dall'inizio che si sente. Vabbè, sì, no, non so io cosa. No, io intendevo l'ultima distorsione, l'ultimo. Sì, quello lì è un Wurlitzer. Quello è il Wurlitzer, penso. Però sì, c'è tutto un. Un Wurlitzer incattivito. C'è un lavoro di effetti e di chitarra che lascio a te spiegare perché non hai capito. Non spiegherò. Ci sono due delay. Sono due delay, un delay analogico e un delay digitale. Quindi delay. Sono doppio delay passato dentro un compressore, eccetera, eccetera. Quindi da questo effetto. Un po' di smanettate. Aneddoto, Beautiful Dimmi. Witch è buona la prima, nel senso che abbiamo fatto la prima take e la cosa bella di fare la presa diretta è che se la fai con un produttore artistico, decide lui quando è buona. Bello questo. Quindi può succedere che... magari uno dice no aspetta io qua volevo fare un'altra cosa la take andava benissimo, venite qui che cominciamo a sistemare il panel, le cose. A me piace vabbè. No ma guarda forse aspetta, magari forse se ne facciamo solo un'altra, cerchiamo di capire, no basta, non serve perdere tempo, venite giù, basta, è fatta, è buonissima, era perfetta. Un giornalista mi pare che abbia scritto che questo pezzo secondo lui è molto beatlesiano tra virgolette, che ne pensate? Massima probabilmente ha ragione, alla fine ognuno ci sente quello che vuole, ma non c'è un giusto e un sbagliato. Ognuno, se uno ha ascoltato solo Gino Latilla nella sua vita, probabilmente questo pezzo è molto, è molto Gino Latilla. Se uno ha ascoltato solo Nilla Pizzi, probabilmente questo pezzo è molto Nilla Pizzi. Quindi io faccio sempre questo. No, però tanto di cappello che ci ha detto Beatles, mi dice Nilla Pizzi. Ok, perché cos'hai è stata una grande pizzi, anche lei, insomma, a modo è suo. È tutto soggettivo. Siamo quello che mangiamo, quindi quello che ascoltiamo è il nostro punto di riferimento. Adesso sentiamo, Sergio lo sa, i nostri ascoltatori lo sanno, i nostri fedeli ascoltatori. A proposito, salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che grazie a lui stasera siete qua. Salutiamo la Nicoletta e anche Andrea, che è un vostro fan incallito fin dalla prima ora praticamente. Ricordiamo anche che, Andrea, dimmi se sbaglio Maurizio, dimmi. Perché io capito da queste parti non spesso, le trasmissioni e quindi anche insomma i gruppi, concerti eccetera, si possono scaricare dal nostro sito. Certamente. Date qui un podcast, ci sono tutti. Parliamo allora di questo giochetto che facciamo sistematicamente ogni mercoledì, ormai è diventata una tradizione. Facciamo tre dischi da portare su un'isola deserta, a vostro piacimento, quello che volete. Una regola fondamentale, Sergio lo sa, i nostri ascoltatori lo sanno, non si può copiare. Ok, vai, comincia tu. Inizia tu. Ah, io? Allora, qua mi è un po' fregato perché l'isola deserta, qua io sono molto paranoico e pignolo su questo argomento. Non è l'isola dei famosi. Logorroico di mio, quindi sarà un problema, non c'è problema gestire questa. Vai. Perché l'isola deserta è un po'. Mi viene voglia di portare determinati dischi in base anche al paesaggio. Quindi. C'è un disco che non posso non citare, che è Rubber Soul dei Beatles. Abbiamo citato i Beatles perché a prescindere da Monte Bianco o Miniera di Carbone, qua penso che me lo porterei comunque. Avrei sempre voglia di ascoltarlo. Certo. Poi mi porterei. Difficile, probabilmente, visto che è anche un po' lungo, mi porterei 69 Love Songs dei Magnetic Fields, che è un disco che io adoro. Vedi, bene, mi fa piacere perché pochissima gente che è venuta qua, pochissimi gruppi, hanno citato questa band. Beh, Stephen Merritt è un personaggio, è un personaggio essenziale. Ha fatto delle cose meravigliose e qualcosa un po' più intricate. Allora. Sì. A me quel disco lì poi piace. Poi è un triplo CD, esatto. E quindi... magari ci faccio un po' il furbo, sono 3 ore di musica, un po' di più. Poi mi porterei sicuramente qualcosa di ambient o di elettronico. Stavo pensando, posso dare una palma ex aequo, non so, cioè non è... Stavo pensando a un disco che hanno fatto Alvanoto e Yuichi Sakamoto, che si chiama Insen, che è un disco splendido. E diciamo ambientale... Mi va bene Terry Riley. Ah, hai scelto Rainbow Inkerder, che ultimamente ho ascoltato molto. Steve Reich, di guru della musica ambientale. Anche Steve Reich, anche Steve Reich potrei portare dietro. Music for 18 Musicians mi piace molto. E tra le ultime cose ambient che mi piacciono molto, che mi porterai in un'isola deserta, anche se ovviamente sono solo tre i dischi, ne ho già detti 84. Non importa, dai. Tim Hacker, che è un producer canadese, porterei o l'ultimo, Rave Death 1972, che è stato registrato in Islanda, o anche An Imaginary Country. E poi ho finito. Non hai citato, non so se sei d'accordo, Brian Eno. Qua andiamo avanti tanto. Io sto ascoltando Discreet Music di Brian Eno tantissimo in questo periodo. E la variazione, quando parte la prima traccia, cioè Discreet Music, che dura 31 minuti rotti, è un viaggio meraviglioso, ma è ancora più bello lo stacco che dopo quei 31 minuti di ripetitività ti do la variazione, la prima variazione in re maggiore, che si chiama Fullness of Wind, che è una composizione per soli archi, che dopo 31 minuti di inosità, di Brian Inosità, entra una composizione verso gli archi, a me ogni volta, cioè io lo sto ascoltando, Discreet Music ragazzi, sì, ma me ne porterei altri 200 di dischi, cioè questo è il problema, che adesso se tu mi dici, sì, David Bowie, perché non ti porti, che ne so, Ziggy Stardust, perché non ti porti Aladdin Sane, perché non ti porti Hunky Dory? Sì, mi porterei anche quello, e se tu mi dici i Dead Kennedys non te li porteresti, cazzo. Parola, sì, li porterei. È un casino, Maurizio. Questo è un discorso veramente pericoloso. Però è bello, è un discorso pericoloso, sì, però è bello e sì. Emozionante. Ma si vede, cioè, io basta, adesso io parlerei solo di questo. Vabbè, Alessandro, tocca a te adesso. Anche qua io ne porterei tre per ogni fase della mia vita, perché sono stato molto influenzato da vari generi, ma proprio, possiamo dire, compartimenti. Dall'inizio, da quello reggae che mi ha formato ad adesso, che ti direi... Quello reggae che ti ha formato, perché musicalmente sei partito con il reggae? Musicalmente sono partito con il reggae e con la musica, la world music, Manu Chao e Mano Negra e tutto quello che mi ha coinvolto, Bob Marley, che poi mi ha portato pian piano fino ad avvicinarmi a gruppi come, se dovessi dire, tre dischi che porterei adesso a 27 anni in un'isola. Sono uno, i Muove Tree. Ah, bello, bello, interessante. Spoon & Rafter porterei. Che non moltissimi conoscono questa band. A torto, invece sono molto bravi, molto interessanti. Stupendi. Uno dei motivi anche della nascita di Margaret. Esatto, anche questo. Uno dei gruppi che ha segnato lo spartiacque personale. Basta. Poi porterei Leonard Cohen. Cosa di Leonard Cohen? Sound for a Room. Uno dei primi lavori suoi. E Kid Day. I Radiohead più sperimentali, Sergio. Tu hai scelto i più sperimentali. Cioè, si sono un po' allontanati dal grande successo di OK Computer per approdare a delle cose più particolari. Sì. Beh, anche l'ultimo, King of Limbs, ti piace? Uno spettacolo, cioè è la conferma che è una band che anche loro non guardano a che cosa piace, come possiamo continuare a sfondare a mungere la vacca, esatto, ma che cosa ci piace a noi, cioè loro continuano l'evoluzione e sono sempre un orizzonte. Hai preso già i biglietti? Sì. Bene, sì. 4 luglio sarò già là a Codroy. Ce li abbiamo. Ce l'avete. Bene, sì, avete fatto bene, perché i biglietti ormai per i Radiohead sono esauriti da tempo, nonostante che mancano ancora qualche mese, più di mese. Mancano ancora. Saranno esauriti da 2 mesi. Da 2011 erano già. Tutti là attaccati a vedere quando venivano fuori queste date e boom. Ci sono state anche delle fake, perché hanno iniziato a dire saranno il 3 luglio a Milano, saranno anche da altre città, e poi invece non era vera, era Stop City che buttavano per avere ancora più ascolti. Alla fine 4 sono le date che ci hanno regalato. Stanno facendo un tour. Stanno facendo un tour assurdo. Sì, cioè, quando verranno a Udine, a Controlpio, là. Fantastici. Già l'ambiente è meraviglioso. Quello. Proprio loro hanno scelto di fare questa tournée in base a locations, quindi certo, chi se ne frega se tiene 20.000 o tiene 400, io la voglio suonare, ok. Bene, adesso suoniamo noi, sono le 23, dici che cosa, ragazzi? Adesso suoneremo The Last Night, che è un pezzo che non fa parte di Fractals, che non fa parte di nessuno del nostro. È una cosa inedita per dischi, noi. Ma che è stato, diciamo, il trampolino prima di andare in studio di registrazione a registrare l'ultimo disco nostro, abbiamo registrato presso un altro studio, che lo salutiamo se ci sta ascoltando, Lorenzo Lolli dello YEC Studio di Mogliano Veneto, che ha avuto una splendida iniziativa, cioè fare una compilation con vari gruppi scelti da lui e diciamo gravitanti intorno a quella zona e a quello studio, a quelle sale prova, e compilation promozionale sia per la sua parte di lavoro, quindi per la parte di studio, che per i gruppi. E noi ci siamo rientrati ed è stata una bella giornata, e è venuta fuori questa canzone che si chiama The Last Night. Time goes on flowing, you don't want to let go. Your heart is broken, 'cause your son told you so. Seeing you try, seeing you try. Are unspoken when you take a look at him, kicking his hand strong. You bring peace as a father could bring. Never seen you cry, never seen you cry. Accepts the Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Rock. 23:15 minuti, sempre Blu Radio Veneto, sempre Rock Wave Live del mercoledì dalle 10 a mezzanotte, questa sera insieme ai Margaret. E Saggio, cosa ne pensi? Queste chitarre che si rincorrono, abbiamo parlato di mantra, un mantra acustico, che si allarga, che si allarga, che si allarga fino alla dimensione totale. bellissimo, l'ho trovato meraviglioso questo pezzo. Peccato non l'avete inserito nel disco. È stata decisione. È stata una bella decisione. C'è un altro mantra del disco. Uno dei motivi per cui alla fine non l'abbiamo inserito è stato che c'è Mind Eyes, che è quella che chiude la traccia del disco, che è un altro mantra. Quindi non volevamo ripeterci, però ci piaceva molto il pezzo e l'abbiamo registrato lo stesso nella modalità, insomma, in cui abbiamo descritto prima. E qui l'avete eseguito benissimo, era un pezzo che non avevo mai sentito ma subito preso, c'è poco da fare, e per ritornare questo rincorrere delle chitarre, il continuo suono ipnotico che continuamente preme in continuazione, una cosa molto positiva. Benissimo, sono molto contento. 23 e 17 e qualche di conseguenza. abbiamo parlato di questo nuovo disco. Tu mi parlavi a microfono spento di qualche progetto. Che progetti avevi prima di arrivare nei Margaret? Ah, giusto, prima, beh, ognuno di noi aveva dei progetti. Poi parleremo anche quello. Mi ricordo. Sì, è venuto qua un po' di anni fa. Sì, suonavo in gruppo che si chiamavano Name. Esatto. Facevamo punk rock, avevamo 17-18 anni. E poi quello che è stato un punto di percorso condiviso con alcuni membri dei Margaret, anzi con tutti, perché alla fine un po' tutti dopo hanno gravitato intorno a quel progetto, è stato il progetto Managua Skunk, cioè? Che si rifaceva alle sonorità di cui sopra le ha descritto, quindi Pachanka, Mano Negra, molto punk, molto. Avevamo anche lì 18-19 anni, quindi comunque c'era il punk, fare casino e non tanto fare casino, quanto non fare quello che ti dicevano di fare abbastanza. Esatto. Era una cosa che dovevi fare. Quello è il motivo. Poi i messaggi che si trasmettevano erano totalmente di un'altra natura, politica. Era un gruppo incentrato molto sulla rivoluzione sandinista in Nicaragua. Certo, quindi il triplo album di Clash dice qualcosa. Esatto. Esattamente. Ed è l'esperienza che ho condiviso anch'io con Paolo dai 18 anni fino ai 23, penso, durata l'esperienza. Poi c'è stata la maturazione musicale, vi siete un po' allontanati dal punk, ma avete qualcosa in serbo? Il vostro DNA c'è ancora del punk? Può darsi, o no? Non morirà mai. L'attitudine. Ecco, l'attitudine. L'attitudine del punk dura 3 minuti, 2,50. I Ramones, che sono i maestri del tutto, con 2,10, 2,20, facciamo un capolavoro. 1,30. Anche 1,30, anche meno di un minuto, mi pare. Now I Wanna Sniff Some Glue. Sì. Ok. Se pare sia meno di un minuto quel pezzo lì. Però sono i Ramones. Sì, sono. C'è poco da fare. Alla fine sono stati, il tempo gli ha dato giustizia, è arte. È arte, sì. Nel caso dei Ramones, non sapevano suonare bene, e che loro suonavano in 1 minuto e 30. Loro hanno portato, ne parlavo con Alessandro un po' di giorni fa. Loro hanno portato la gente a vedere i concerti, non allo stadio il grande gruppo, ma nel locale il gruppo più piccolo che magari fa cose più particolari. Sono stati loro, con i CBGBs, che era un posto da ubriaconi, che è stato, mi pare, anche chiuso nel 2005-2006. Che era un posto da lasciamo perdere, non andiamoci mai. Era un posto. Sì. E hanno alzato il prezzo dei biglietti, hanno fatto tutta una serie di operazioni grazie alla loro musica, alla loro forza espressiva. Tra l'altro, End of the Century, un DVD che ho visto, che è da vedere per tutti gli appassionati, non di Ramones, ma di musica in generale. Anche a chi piace Bach dovrebbe vedere il documentario di Ramones, perché sì, insomma, si parla di vita vera, di gente vera, non di personaggi costruiti. Proprio il punk è fantastico per questo, perché non ci sono occhiolini, insomma, no? A proposito di questo, mi diceva un ragazzo che è venuto qua un po' di tempo fa, Sergio, che ha visto dopo molti anni Sex Pistols, che sono stati in concerto non tanti mesi fa, l'anno scorso, mi pare. E sì, sono ancora loro, però accusano gli anni. Esatto, un po' gli anni, anche dal punto di vista fisico. Il cantante era un po' grassottello, però lo spirito è sempre rimasto. Sono passati tanti anni, e quando uno fa un disco di rottura come hanno fatto loro, era proprio di rottura al 100%, già dal titolo era di rottura. Quindi, poi loro ci avevano già provato nel 94, mi pare, con il Filthy Lucre Tour, che erano ritornati, sì, a girare il mondo. Suonavano molto meglio rispetto al 77, ecco, perché avevano imparato a suonare qualcosa nel frattempo. E, simpaticissimi. Ma la bellezza di quell'epoca era perché loro non sapevano suonare, però non sapevano suonare, sì, certo, però davano un impulso talmente forte che sono. Poi nel caso dei Sex Pistols non sapevano suonare, ma avevano un sacco di apparecchiatura perché Steve Jones, il chitarrista, la rubava. Quindi andava nei backstage e la rubava. Quindi fantastico. Perfetto stile. Fantastico. Anche qui The Firth and the Furious, io lancio così messaggi promozionali. Un altro documentario da vedere, se magari non così in un'oretta e mezza ve la cavate. Se non volete leggere Il sogno inglese, England's Dreaming, che è il libro che ha scritto John Savage, che è un libro molto corposo e molto più specifico riguardo ai Sex Pistols. Io adesso mi permetto di fare queste introduzioni perché ci ho anche scritto una tesi di laurea. Bene, bene, quindi, sei informatissimo. Quindi faccio sì, ciao, allora, io sono un espertone di queste cose. No, non è vero, però mi sono documentato un po' più del dovuto. E basta, tra l'altro noi... Parlando di promozione magari nostra, dobbiamo ancora dire il nostro sito, che è margaret.it, margaret con il th finale, margaret.it. Da lì si accede a una sezione della band vera e propria, quindi con biografia, con la discografia, con gli ascolti, diciamo, collegati alle nostre canzoni tramite SoundCloud, con tutto quello che c'è da sapere su di noi, e si accede anche al nostro blog. E il nostro blog è un misto tra consigli per gli acquisti, deliri assoluti, e qualche video particolare. Principalmente sono molti consigli di dischi, ma c'è un po' di tutto in mezzo. Quindi è un blog che tante persone... Quello che cerchiamo di dire nel blog è che we like music. Cioè, ci piace proprio ascoltare, ricercare e consigliare, nel senso non sono recensioni. Poi io no, parlo, ma non sono neanche recensioni. Parlo per sì. Paolo e Nicolò, il batterista, certo, che sono quelli che scrivono di più nel blog e danno non, come ho detto prima, non sono recensioni, ma sono sensazioni da provare. Cioè, provate questo disco in questa maniera. Provatelo. Certo. Cucinando, provatelo. Non si danno voti, non si danno. È solo. Oh, ragazzi, stamattina mi sono svegliato e ho messo su il vecchio disco degli At the Drive-In. Cioè, fantastico, dovete assolutamente tornare a ascoltare. Cioè, queste cose qui, proprio puro entusiasmo, puro. Ho capito. E a proposito di entusiasmo, il disco vostro, se uno lo vuole fisicamente, scrivere a Macaco Records? No, allora, fisicamente abbiamo un distributore che è l'Audio Globe. Sì. Quindi in qualsiasi negozio di dischi si può andare dal proprietario chiedere una copia. Ovviamente non l'avrà disponibile, però in poco tempo potrà arrivarla. Quindi, se no, c'è il mezzo internet audioglobe.it, e c'è anche IBS lo vende, anche il Mondadori Store vende il nostro disco. E qualora aveste dei dubbi, voleste sapere, magari confrontare vari venditori online, che ce ne sono un po' che si occupano del nostro disco, scrivete Margaret con il TH staccato Fractals e vi verranno fuori su Google, su motore di ricerca qualsiasi, e vi verranno fuori alcuni venditori, insomma. Quindi magari uno può fare un po' di più, uno può fare un po' di meno, eccetera. Dubbio no, ci sono due negozi a Mestre c'è Good Music a San Donà, cioè, a San Donà non mi ricordo. Musica nuova. Sì. Bene. Ok, adesso sentiamo un pezzo dal disco. Se dici, Sergio? Sì, la traccia è la numero 7, Staring at Stores. Ok. Rockway, l'onda del rock. Out the window, still want it all. Staring at stores, watching mirrors, and you still want it all. Yeah, you still want it all. Moving around, we're flowing. Moving around, we're flowing. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Maurizio, l'ultima mezz'ora insieme ai Margaret qui su Blu Radio Veneto in Rock Wave Live. Sì, dicevo Sergio, la quiete dopo la tempesta, quindi la tempesta, questi suoni, sì. Non dico schizofrenici, ma molto agitati, e poi la tempesta, queste tastiere, questo piano che poi mette le cose a posto. È così, ragazzi. Mettere tutto in ordine. Alla fine sarà così per tutti. Sì. Sì, ma è bello così, perché la dimensione del pezzo era buona, era pompata, era mossa, cioè aveva un certo peso, poi però si è ritornati in quella strada che avete, che continuate a percorrere. Beh sì, sì, qua in questo pezzo Stan Nestors ha dei suoi gradini, ha dei suoi steps che si parte con una dinamica e per poi tornarci, dinamica tranquilla, intima, per poi riavere un ritorno al silenzio. I steps, cioè questo continuamente portare a un discorso e poi ritornare sulla traccia, sulla via. L'idea di questo pezzo è nata così? Giovanni Ferrario vi ha dato una mano, però il pezzo è questa, è così praticamente, o c'è stato proprio stavolta il produttore ha detto no, io lo voglio sistemare in questa maniera. Beh, l'ha alleggerito, questo penso sia anche dove ha lavorato di più, l'ha reso più discorsivo, perché com'era prima? Era più ripetitivo, la parte con il piano era praticamente un loop che non finiva mai, diciamo, sì, ripetitivo, lungo. L'idea di base era quella di fare un loop, quindi qualcosa che si ripete, però non come al solito, magari di 4 battute, di 30 secondi, no? Un modulo di accordi di un minuto che si ripete tre volte circa, no? Mi pare, e, nel quale il piano e tutti gli strumenti, a parte la chitarra che cresce, sono abbastanza stabili, abbastanza, dai, via, la butto un po' lì. E invece poi Ferrari ha dato un taglio più discorsivo. Cioè, noi avevamo un pedale proprio. Un pedale, esatto. Cioè, cosa vuol dire un pedale, Alessandro? Sì. Pedale significa un pezzo, un groove che viene dato sempre lo stesso, però con una dinamica maggiore che quindi sempre crea movimento. E Ferrario ha cercato di dargli un po' di far dialogare le due cose in maniera un po' più sciolta, più fresca. Prima era, diciamo... Era efficace lo stesso, efficace. Due sensazioni diverse. Però parlava un'altra lingua, era diverso. Magari poteva piacere di più quella di prima, poteva piacere di più questa. Ah, ho capito. È questione di gusti. Lui, infatti, per come è fatto, per la visione complessiva del disco, ha ritenuto giusto questo. Poi, anche l'ha detto subito, immediatamente. Sì, quando abbiamo consegnato i provini, c'è scritto dei feedback, degli appunti. E ci ha detto subito: guarda, qui forse potremmo lavorare un po' affinché la parte di piano sul finale sia un po' più discorsiva. Tutto qui, niente di più normale. E voi cosa avete detto? L'importante è quando un gruppo decide di lavorare con un produttore. Deve stimarlo, perché se non lo stimi avrai da ridire su qualsiasi virgola che ti cambia di una canzone, anche di un timing in meno. Ma se ti fidi anche gli scontri sono utili. Se ti fidi e vuoi scontrarti è un'altra cosa che se non ti fidi e vuoi scontrarti, perché, allora, perché tu poi il produttore lo paghi, poi comincia a entrarci discorsi, ecco, ma adesso qua dobbiamo fare come vuole lui, poi cosa che noi non conosciamo, perché noi di Giovanni ci siamo fidati e ci è piaciuto molto lavorare con lui e con Marco Tagliola. Quindi cioè Marco e Giovanni hanno praticamente vi hanno condotti, insomma, sulla strada. Sì. Avevamo bisogno, ci hanno fatti crescere da un punto di vista produttivo, abbiamo cercato di rubare un po' di mestiere, è difficile, ci vogliono tante esperienze di questo tipo. Però per noi è stato molto formativo, ecco. La prossima volta che magari registreremo da soli, che potrebbe esserci, c'è questa mezza idea di tornare a fare un quattro tracce, un EP, qualcosina di alleggerimento, sicuramente non saremo gli stessi rispetto a qualche anno fa, e soprattutto sarà grazie alle persone con le quali abbiamo lavorato, quindi Marino nel caso di White Lines e Giovanni e Marco nel caso di Fred. E oltre a Giovanni e Marco, chi ha lavorato con voi in questo disco? Oltre, chiaramente, voi avete suonato Giovanni e Marco, e poi qualche altro vi ha dato una mano? Giovanni Versari, che ha fatto il mastering, che anche lui ha messo la sua firma anche lui nella resa sonora, quindi mastering è, non ho ancora ben capito cosa di preciso, ma è un processo post produttivo che non ha a che fare col missaggio, ma ha a che fare con la resa sonora, suono, quindi il suono diventa più vivo, adesso non so tramite quale procedimento di preciso, ma viene tutto bilanciato a livello di frequenze. Il mastering può fare una grandissima differenza. Ho capito. Tra un disco e l'altro. Il libretto chi l'ha fatto? Parlando invece di come è stato fatto che un disco fa parte anche la sua, diciamo, il la suo confezione, guscio, esatto. La confezione. Quante volte compri una cosa che magari non sai, solo perché dici, vabbè, compri solo perché ti attira il prodotto di come è stato creato. Ci hanno aiutato uno studio grafico, si chiama 3AM, in cui vogliamo salutare la Anna e la Monica, e due ragazze che hanno, ci hanno dato un sacco di idee, un sacco di spunti, e poi hanno portato veramente con gran professionalità, perché hanno, sono nostre coetanee, mm-hmm. e veramente ci hanno messo un entusiasmo che se ci fossimo affidate a un'agenzia qualsiasi o da altri forse non avremmo trovato. Sono anche le nostre amiche, quindi ci hanno messo proprio un... A vostro agio al 100%. Sì, sì, è un disco fatto col cuore a 360 gradi, anche dal punto di vista grafico. Beh, è vero, perché esatto. Tutti ci tenevano a fare noi un poi avevamo lavoro. L'idea dei Frattali e quindi anche ci hanno spieghiamo consigliato... Spieghiamo un momento il titolo, Frattali, sì. Frattali, dando la definizione di frattale, che è ardua dare una definizione sì. di frattale perché è abbastanza complessa, però... È il diciamo il più, la più piccola parte che forma il complesso, cioè il totale. Sì. Il totale che può essere un qualcosa di enorme, gigantesco, che però rappresenta anche la sua più piccola unità. Ho capito. Che è la stessa forma. Forme uguali che si ripetono a scale diverse. Esatto. Esatto. Secchione. Wikipedia. Quindi l'idea di, e quindi l'idea, diciamo, questa cosa che comunque i frattali si ripetono, sì. si ripetono come i mantra, quindi certo. comunque ci riprende un po' anche nel nostro disco, e poi di portarlo rappresentando le nuvole, le nuvole che hanno questa essenza sì. che ha sempre affascinato, che ha sempre dato questa cosa di intangibile ma di presente. Presenza grossa ma leggera, quindi ci ha colpito molto quando ci hanno presentato questa opzione. Tra le varie che ci hanno proposto, l'abbiamo messa, diciamo, il come si può dire, il provino, mm-hmm. il provino dell'album. L'abbiamo messo vicino a un amplificatore, mettendo la musica, mi ha detto sì, questo rappresenta quello che c'è dentro all'album. E quindi ci suonava bene anche che nella copertina ci fossero nuvole. Certo, benissimo. Ok, sono 23:37, cosa abbiamo con l'iscaletta, Sergio? Abbiamo la traccia numero 9 che è Mind Eyes, oppure li facciamo suonare? Facciamo suonare adesso. Sì, sì, sì. sì. Che cosa, ragazzi? Suoniamo They Say, sempre da Fractals. Stay down, cover. Bullets will not hit your head. The end of the tunnel. You can't stand there. It's all right. It's all right. All right. They say, don't give up, don't give up. Wonder why they say it's all right. All right. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ripetiamo il pezzo che avete appena ascoltato, avete appena fatto sentire, perdono? Day Say, un giornalista ha scritto che ha delle evoluzioni stellari. Cosa dici? Lusingato. Ditemi che stellari ha scritto. Beh, non va mica tanto distante, però. No, c'è una parte, c'è una coda anche qui. Perché in tanti pezzi ci sono le code nel vostro album? Per qual motivo? E c'è un progetto anche qua, il discorso del mantra, del suono che si dilata. Diciamo che forse noi vogliamo far capire che la musica è il linguaggio universale, e diciamo che non è che ci volevamo noi nel mondo per farlo capire, ok, bene, 1-0. Però anche in un pezzo, chiamiamolo pop, come i nostri, certo, e metterci 2 minuti e mezzo di non cantato è un chiaro messaggio per dire: ragazzi, si può, cioè si sta bene lo stesso, anche, cioè, sia la parte magari detta che la parte non detta possono avere la stessa sensazione, può arrivare lo stesso messaggio con o senza le parole. Questo è il motivo delle code, praticamente. Noi quando poi facciamo le code ci immergiamo anche a livello proprio, è divertente suonarle, per quanto depressive a volte. No, perché no? È tutta una questione proprio di intensità, è molto divertente, si entra dentro ai pezzi con più facilità, è bello anche come approccio nostro, insomma. Certo, ma le code sono sintomatiche del live, praticamente. Sì. Le allungate a dismisura o siete state sempre siamo buoni. Beh, siete buoni, cioè, come in Shadow Scam allungata la coda, nel senso, si è voluti, è stato voluto ridurla nell'album e poi nel live allungarla ed esplodere di più. Quanto consentite al batterista di esplodere? Quanto vuole? Noi abbiamo, penso, uno dei batteristi che più, il più intimo dei batteristi. Cioè, cosa vuol dire, Alessandro? Cioè, che sa essere proprio minimale. Nel senso, lui quando si mette a comporre ne ho sentiti pochi di come ascoltano quando ti chiedono: ascolta il pezzo e poi lo facciamo. Molti partono, ti danno subito 5 secondi di chitarra da sole e poi iniziano già a martellare, a suonarci sopra. Lui proprio parte dal minimo e si inventa tantissimo sui modi in cui mette i piatti nel rullante, ci batte il rullante col piatto sopra che vibra, oppure piatti su piatti, campanelline, è un ricercatore. È un perfezionista, veramente. Si mette in discussione di continuo. Cambia tante volte. Lo puoi sentir dire anche: io qui non vorrei suonare. Esatto. È stranissimo. Decide di non suono. Decide che è così. Quando un musicista dice: io qui non suonerei, è uno di quei buoni, secondo me. Cioè, uno che ne capisce subito, che vede. Quando dice, quando 20 secondi se li prende per starsene buono, fermo, è uno dei migliori. Però dobbiamo dire che ha suonato anche in una tournée con un gruppo hardcore. Ah, beh, cacchio, se l'è fatta la tournée in Francia. Sì, no, ne ha rotte anche lui di bacchette. Sì, veramente. No, diciamo, suonare con un gruppo hardcore al suo bagaglio. Quando gli chiedi: bene, ora spacca, spacca tutto. Sì, sì, lo fa. Chiaramente. Diciamo, nell'ultima traccia, il Mind Eyes. Che è una traccia molto importante per voi. Sì. Ma è molto importante anche per il disco, per il progetto, per il finale del disco stesso. Beh, lì il finale è una creazione proprio. Ecco, lì la produzione di Ferrari è stata incisiva. Ha portato a cose che non avevamo mai idee vostre, non erano arrivate fino lì. Là abbiamo proprio detto: okay, cose che voi uomini non avete mai visto. Lui ha cominciato a dire: ma io qua ci metterei dei loop di tromba. E noi, tra noi e noi, ma che cazzo, cioè, loop di tromba non l'abbiamo mai fatto in vita nostra, ma anche qui metterli in un disco così, poi non so, boh, ma Giovanni, ma noi abbiamo il synth, cioè, no, puoi regolare la frequenza, puoi regolare l'ampiezza dell'oscillatore, è fighissimo. No, ma il synth nel disco c'è già altre volte, basta, quella è una cosa che avete già detto, già fatto, proviamo a fare il loop di tromba. Ma Giovanni, secondo me non è una grande idea, bellissimo. Ovviamente aveva ragione lui, come, se, vabbè, come spesso. E l'ha messo su una stanza, ma anche gridandogli e veramente steccandolo, il Gibo, il nostro trombettista, sì, chiuso in una stanza, e ha ripetuto dicendogli: ma liberati, sfogati, dai modo di... Sì, sì. E cinghiate anche, eh? Sì, sì. Cinghiate, liberati, cinghiata. E lui, penso, più per paura che per... questo corpo. Che per idea. Penso che preso dalla paura ha prodotto poi quello che abbiamo sentito nel disco, praticamente. Ok, penso che sia proprio questo il pezzo che abbiamo scelto per finire. Sì, è l'ultima traccia che era adesso stata scelta, sentiamo... ed è anche l'ultima del disco dei Margaret. Lo sentiamo adesso. Potremmo anche sentirlo, in effetti, okay. Sì, sì, sì. Rockway, l'onda del rock. Mine eyes have seen things. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Era Mind Eyes, l'ultima traccia del disco dei Margaret, Maurizio. Siamo ormai quasi al termine, 23:52. Sì, abbiamo deciso con i ragazzi di fare due pezzi, ma prima di fare un primo pezzo, poi faremo i saluti e il finale. Paolo e Alessandro, microfono spento, mentre il pezzo grande, questo grande pezzo andava, parlava dell'abilità di Marco a fare determinate cose nello studio, vero Paolo? Sì, a far suonare lo studio è una cosa importante. Lo studio, lui è molto concentrato sugli ambienti e diciamo che l'insegnamento è stato, l'apparecchiatura è bella, è importante, però la visione e il modus operandi sono quello che danno cuore a un lavoro, a un discografico, e lui è tutto cuore. È chiaro. Quindi la coppiata Giovanni e Marco hanno fatto il disco. Poco chiaramente con voi. Intorno. Sono due geni. Senza esagerare. Beh, uno che ha suonato con PJ Harvey, un altro sono suonato con Capossela. Sono due geni. Noi fortunatamente hanno accettato di lavorare con noi e quindi siamo cresciuti, speriamo significativamente da un punto di vista produttivo, e cerchiamo di imparare l'arte e metterla da parte. Esattamente, adesso la mettiamo su assolutamente, perché sentiamo il primo pezzo degli ultimi due della scaletta di questa sera. Che cosa? Si chiama It Will Be Alright. Ok, salutiamo dopo? Sì, salutiamo. Ok, dopo. Ok. Il rumore di sottofondo è l'organetto. My heart was dying when I asked for help. Blood pushed my skin as I took a rest. Not going any farther than this. No, no saints are coming to save me, just a sparkle from my brain. It will be alright, it will be for you. It will be alright, it will be for you. It will be alright, it will be. It will be alright if it will be for you. fino all'ultimo istante, come la tradizione di Rockaway, vero Sergio? Assolutamente. Questo organo possiamo chiamarlo organo giocattolo, uno strumento giocattolo per modo di dire, però un piccolo organo che dà un certo peso, un certo suono, vero? C'è poco da fare. Un organo per... si chiama Cadette. Cadette. Nome è tedesco e... Cadetta è colui che impara, no? Esatto, sì, un cadetto praticamente. Uno che sta incominciando ad imparare praticamente. Esatto. Bellissimo, un suono da organo, un suono di un certo fascino stasera qui. Stanotte ormai manca 2-3 minuti a mezzanotte. Dobbiamo finire. Dici, no, pensavo dimmi, sia altro da dire. No, beh, siamo arrivati ai saluti. Sì, esattamente. Chiudiamo con un altro brano, ma prima appunto ricordiamo che siamo stati in compagnia per quasi 2 ore con i Margaret, da quel di Mestre, Venezia, provincia, che ci hanno presentato molti brani del loro ultimo disco che si intitola Fractals, e più anche altre cose. Una bella chiacchierata, Maurizio. Sì, volevo solo ricordare, ragazzi, se avete le date vicinissime. Alcune date abbiamo il 7 marzo al Diagonal Loft di Forlì. L'8 marzo al Vapore a Marghera. Poi 28 marzo a Roma. Il 7 ecco. aprile spostata. Il 7 aprile a Roma alle Mura. Sì. Che è stata quella posticipata. Sì. Quella posticipata. E poi to be announced. Avremo il 9 giugno probabilmente in Trentino, dalle parti di Bolzano. Mm-hmm. My bad, non mi ricordo dove. E alla Filanda Motta TBA. To be announced, non sappiamo ancora quando. La Filanda Motta, che è vicino a Scorzè, Mogliano, sì, quelle bande là sono parti nostre. E poi adesso stiamo cercando di incastrare un po' di qualche altra data. Come abbiamo detto prima, non è facile, no, ma non è mai facile niente in questo. No, assolutamente. Ricordiamo Paolo, stasera ci sono stati Paolo e Alessandro, gli altri due componenti della band che si stanno ascoltando da casa. Nicolò e Gibo, li salutiamo, quei due bastardi. non so, devo fare un saluto a mia sorella Arianna, che era dovuto, visto che mi ascoltava, ha detto vi saluti, sì sì, saluto. Perfetto, benissimo. Grazie ai Margaret che ci hanno presentato il loro nuovo album. Sito internet? E vai, con sito internet. Margaret.it, Margaret con il TH finale, importantissimo. Concludiamo con cosa, ragazzi? Concludiamo con Nightree. Che è un inedito, ma è un inedito vecchio, quindi è un vecchio pezzo che stiamo riscoprendo solo adesso, dopo, a distanza di 6 anni. Succede, va anche così, è bello. Certamente, grazie a Sergio e ci sentiamo domani sera con Agostino, con Andrea Celeste alle ore 21. Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, grazie. Buonanotte. Yourself, and you can't meet anybody else. apples falling from above. If you want to go, you can return. I'll be waiting here forevermore until life is beautiful. Till life is beautiful, oh. Beautiful like you, beautiful like you.